America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo con la prima visita del presidente francese Nicolas Sarkozy alla Casa Bianca. Today President Sarkozy and I have reaffirmed the enduring ties between our countries. Barack Obama riafferma i legami duraturi tra i due paesi. La communauté de vue a été aussi identique entre les États-Unis d'Amérique et la France. E Sarkozy che afferma che il punto di vista fra Stati Uniti e Francia non è mai stato così vicino. L'incontro è stato molto cordiale, molto gradevole, ma come dicevamo ieri, l'Europa alla fine non ha giocato un ruolo centrale. È stato un incontro tra Francia e Stati Uniti, una Francia che come paese europeo appare sempre più piccolo rispetto a quelli che sembrano essere gli interessi americani per paesi più importanti, più grandi, in maggiore crescita come l'India, la Cina, il Brasile. E dunque si conferma che comincia un pochettino una ridefinizione dei rapporti. Non è chiaro se si riuscirà a ritrovare l'impeto, la forza per dare un'immagine importante all'Europa e dunque per riportare l'Europa al centro del dialogo con gli Stati Uniti, oppure se piano piano si tornerà soprattutto a parlare di rapporti bilaterali, di rapporti nazionali. Ma sentiamo dal presidente Obama quale è stato poi l'argomento dominante che ha fatto notizia in questo incontro. So I'm not interested in waiting months for a sanctions regime to be in place. I'm interested in seeing that regime in place in weeks. Barack Obama dice che non è interessato ad aspettare mesi per le sanzioni contro il regime iraniano, ma vuole che siano approvate in settimane. Ecco, questa notizia ha fatto un po' il giro del mondo, perché è chiaro che gli Stati Uniti, lo sappiamo, vogliono delle sanzioni contro l'Iran. I tempi non erano stati decisi. A questo punto c'è una tabella di marcia, ne avevamo parlato qualche giorno fa. Ci sarà la firma l'8 di aprile con la Russia per la riduzione di armi strategiche fra Washington e Mosca. Ci sarà subito dopo, il 12 e il 13 aprile, un incontro a Washington con 44 paesi sulla denuclearizzazione e su un nuovo dialogo per l'energia. Ecco, in quell'occasione comincerà a prendere forma l'idea molto più concreta di sanzioni contro l'Iran, e l'idea è che si troverà alla fine un compromesso con la Russia per sanzioni forse meno pesanti, ma che comunque saranno approvate dalle Nazioni Unite. Obama ha detto che gli alleati sono più uniti che mai nell'impedire che l'Iran diventi una potenza nucleare, e Sarkozy ha confermato che l'Iran non può continuare nella sua pazza corsa per produrre delle armi nucleari e per procedere alla sua costruzione di impianti per l'arricchimento dell'uranio. Sergio Marchionne a New York ieri è giunto all'hotel Marriott di Times Square a Manhattan, ha inaugurato l'Automotive Forum 2010, l'associazione dei concessionari americani. Il messaggio dell'amministratore delegato di Fiat e Chrysler: raggiungeremo il break-even operativo entro quest'anno. L'obiettivo è di vendere 1,1 milioni di auto negli Stati Uniti è a portata di mano. C'è l'accelerazione produttiva immediata per alcune centinaia di berline che erano in ritardo sui tempi, e soprattutto sul piano finanziario ci sono 5 miliardi di dollari in cassa, e dunque la liquidità non è più un problema. Per l'Italia, nuovi dettagli sulla ristrutturazione di Pomigliano: ci saranno 700 milioni di euro da investire. Ci sono stati anche 6 contestatori ieri a New York che protestavano per dei tagli di costi effettuati da Chrysler. Marchionne ha confermato che occorre uscire dalla scatola, ci vuole un modello di business del tutto nuovo, e è stato molto creativo nella sua conferenza. Come ispirazione ha citato il cantante Bruce Springsteen e l'architetto Frank Lloyd Wright. Springsteen ha abbandonato la struttura musicale tradizionale, il suo approccio è stato più fluido, la forma che segue ciò che è funzionale, ha detto Marchionne. La stessa filosofia adottata da Frank Lloyd Wright nell'architettura. La canzone che ha citato Marchionne è Thunder Road del Boss, appunto, uno dei pezzi di rock migliori, più belli di tutti i tempi, ha detto, e in qualche modo, ha osservato Marchionne, è appropriata per la nostra situazione. We got one last chance to make it real, recita a un certo punto un verso della canzone, e cioè abbiamo un'ultima possibilità per farcela. Ma sentiamo direttamente alcune delle sue dichiarazioni a partire da alcune difficoltà di mercato. Questo è il mercato che si sta rifacendo. Ormai la sberla l'ha presa, no? Nel senso che si è ripulito nel 2009, all'inizio, fine del 2008-2009. Quindi sta ripartendo in una maniera pulita, cosa che dovrebbe succedere anche in Europa, no? Quindi l'anno veramente brutto in Europa sarà quest'anno. Domandandosi se la situazione in America sia più semplice, ha detto: beh, non è più semplice, è ripartita, in una maniera sana, quindi ormai il brutto è passato. E se l'America sia in vantaggio sull'Italia? Molto, ormai sì, il passaggio di ripulizia l'ha fatto. E sulle nostre prospettive di ripresa? 2011, credo che ripartirà un po' alla volta. Why don't we have a big home cooked dinner tonight? You know, something special. Balloons or something? No, I don't want balloons or something. I'm just saying something nice. When don't I make it nice? Make something nicer. Make it yourself. Andy Garcia chiede alla moglie di preparargli una buona cena. Una cena buona. La moglie dice: ma preparatela da solo. Questa cena è una delle scene più interessanti del nuovo film, appunto, con Andy Garcia, City Island. Commedia brillante, indipendente, diretta da Raymond De Filippa. Abbiamo incontrato Andy Garcia a New York subito dopo l'anteprima del film, che devo dirvi ho trovato molto divertente. The director sent me the script and asked me if I would play the part and produce the movie with him. Garcia ci racconta di aver ricevuto il copione dal regista, di aver ricevuto anche la richiesta di diventare coproduttore oltre che attore protagonista, e sostanzialmente interpreta Vince Rizzo, una guardia giurata che lavora in una prigione di New York, frequenta però di nascosto dei corsi di recitazione. Ma quello non è il suo unico segreto, ce n'è uno molto molto più importante che non vi dico ovviamente, perché immagino che andrete a vedere il film. Del resto tutta la famiglia Rizzo vive in una specie di grande segreto, ognuno cerca di nascondere qualche cosa all'altro. A un certo punto Rizzo viene scoperto, viene ingaggiato per un film di Martin Scorsese con Robert De Niro, e dunque improvvisamente questo suo sogno di diventare attore diventa realtà. Una commedia, vi dicevo, molto divertente. There's all kinds of cultures in there. But there is Italians there and all kinds of cultures, Germans and Ecco, sempre Garcia che ci racconta di City Island, e secondo me questo è il vero gioiellino di questo film, perché questa cittadina che è subito attaccata a New York, al di là di uno dei ponti a nord di New York, si affaccia sulla baia, è un vero gioiello, un porticciolo, e ve lo dico questo perché molti di voi verranno a New York come turisti, e al di là delle mete tradizionali, dei musei e di quello che si va a visitare magari anche a Brooklyn o a Staten Island, ecco, vi consiglio di fare un salto appunto a City Island, che è vicinissimo, ci vogliono 20 minuti per arrivare, di andare in uno dei ristoranti di pesce tradizionali molto buoni, e vivrete un'atmosfera direi originalissima e molto diversa rispetto alla quale uno può essere abituato nel suo tradizionale itinerario di turista. Per chiudere voglio farvi ascoltare una chicchetta, una ripresa segreta di Andy Garcia al pianoforte durante una pausa pranzo nel corso delle riprese del film, e come ascolterete vedremo che ha davvero la stoffa del grande artista. Bene, un paio di storie americane. La prima, il Partito Repubblicano, in genere vessillo di moralità, beh, è stato colto con le mani nella marmellata. Alcuni funzionari, alcuni politici sono stati denunciati perché hanno usato fondi elettorali per festini privati, per andare in night club, per intrattenersi con spogliarelliste, per noleggiare limousine private, addirittura aerei privati. Si parla forse di $100,000 di appropriazioni indebite, e dunque lo scandalo in questo momento travolge il Partito Repubblicano. Però raccontarvi soprattutto la storia di una ragazza, di una quindicenne che era immigrata 6 mesi fa con i genitori dall'Irlanda, si era trasferita a South Hadley in Massachusetts, era andata nella nuova scuola, era entusiasta dell'America. Naturalmente a scuola si innamora di un ragazzo più grande, un ragazzo di 18 anni. Lui la scarica subito, la tratta in modo orrendo, la prende in giro davanti agli amici rivelando particolari della loro relazione e subito dopo diventa vittima dallo scorso settembre di molestie, di violenze da parte degli amici del suo ex, a questo punto fidanzato, ragazzi e ragazze. I professori osservano ma non intervengono. Il 14 di gennaio la tragedia. Elizabeth si suicida, si impicca in camera sua, non sopporta più le angherie dei suoi compagni, è assolutamente delusa, i genitori sono devastati, l'entusiasmo dell'arrivo in America, il sogno americano è finito male. Bene, ieri 9 teenagers sono stati accusati dalla procura del Massachusetts per ripetute molestie contro Elizabeth. 4 ragazze, 2 ragazzi hanno capi d'accusa pesantissimi: stupro, violazione dei diritti civili, stalking. Il procuratore Schneider ha applicato per la prima volta in questo caso leggi antibullismo che erano state passate pochi mesi fa dal Massachusetts e che riguardano la scuola e i teenagers, e ha detto che sono leggi indispensabili perché i teenagers non possono difendersi dietro la giovane età, la loro cattiveria a volte assurdo. Dimostreremo con la loro condanna che il bullismo è intollerabile. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Come vi ho detto qualche minuto fa, Marchionne da New York ha citato come ispirazione per aprire nuovi punti di vista, nuovi orizzonti, nuove prospettive Bruce Springsteen e la sua canzone, in particolare Thunder Road. E allora, per tutti quelli che ci ascoltano e che hanno questioni urgenti da risolvere o che cercano nuove prospettive, ecco Thunder Road di Bruce Springsteen. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.